Italia in controluce. Oggi è il 13 di ottobre, benvenuti in Italia in controluce, due edizioni 6.30, 13.30 da lunedì al venerdì, reportage, inchieste di cronaca italiana. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. È giorno del ricordo e della memoria, il giorno in cui Italia in controluce racconta tutte le storie di tutti i soldati, molti di loro appartenenti al corpo degli alpini, rimasti uccisi nella guerra in Afghanistan. Certamente una guerra che la coalizione non riesce a vincere, nonostante l'enorme sforzo bellico. Il racconto di Raffaella Calandra. A Kabul la lapide è stata già aggiornata. Ancora quattro nomi e altre vite scolpite su quel marmo che nella chiesa in Afghanistan le ricorda tutte. Certo, questa lapide in latino parte dal tenente colonnello Calò, ucciso nel 1998. È il primo dei nostri militari venuti in Afghanistan dopo l'11 settembre 2001. Il primo dei nostri caduti è del 3 ottobre 2004. Dal 3 ottobre 2004 al 9 ottobre 2010 tutti elencati sono lì. Lo chiama l'angolo della memoria, padre Giuseppe Moretti, questo tributo ai 35 militari italiani uccisi. Quest'anno il parroco di Kabul l'ha dovuto ampliare più volte. Gianmarco Manca, Francesco Vannozzi, Sebastiano Ville e Marco Pedone. I nomi dei quattro alpini uccisi sabato 9 ottobre allungano l'elenco degli italiani morti dall'inizio della missione in Afghanistan. Il primo nel 2004 fu Giovanni Bruno. Poi toccò a Bruno Vianini e Michele Sanfilippo. Nel 2006 a morire sono in sei: Manuel Fiorito, Luca Polsinelli, Carlo Liguori, Giuseppe Orlando, Giorgio Langella e Vincenzo Cardella. Lorenzo D'Auria e Daniele Paladini, le vittime del 2007, seguite l'anno successivo da Giovanni Pezzulo e Alessandro Caroppo. È negli ultimi 24 mesi che l'Italia ha pagato il tributo più alto. Nel 2009 muore prima Arnaldo Forcucci, poi Alessandro Di Lisio. Quindi il 17 settembre sono sei militari uccisi in uno stesso attentato: Antonio Fortunato, Matteo Mureddu, Davide Ricchiuto, Massimiliano Randino, Roberto Valente e Gian Domenico Pistonami. Neanche 30 giorni dopo muore Rosario Ponziano. Nel 2010, in diversi contesti, 12 italiani hanno perso la vita: Pietro Antonio Colazzo, Massimiliano Ramadù, Luigi Pascazio, Francesco Saverio Positano, Marco Callegaro, quindi Mauro Gigli e Pier Davide De Cillis, poi Alessandro Romani, prima degli ultimi quattro. C'è il militare di carriera, ma molti di questi ragazzi vengono sia per un'esperienza diversa, molti vengono anche per ragioni economiche. Molte volte sono degli sposini, qualcuno ne ho visto, addirittura sono terminati i viaggi di notte a venire qui. Vederli piangere, sollevare dei loro commilitoni, ma come bambini. E in fondo molti non sono tanto più grandi, come il caporal maggiore Bruno, morto a 23 anni. In pochi superano i 30, praticamente tutti arrivano dal mezzogiorno. Mentre i loro nonni partivano con valigie di cartone, molti di questi ragazzi cercano in una divisa il loro avvenire, dal sud all'esercito e la nuova emigrazione, di cui parlammo già anche con Roberto Saviano. Non ci si può non domandare del perché la maggior parte dei soldati che sono nelle missioni all'estero sono meridionali. Gli alpini in Afghanistan sono meridionali. Alpini, meridionali, già è una contraddizione. Credo la quasi totalità dei caduti a Nasseria meridionali o figli di meridionali. Tutto questo non può non far ripartire una riflessione su un concetto che spesso fa inorridire molti politici: la questione meridionale. La questione meridionale continua a esistere. Quando la leva era obbligatoria, questi ragazzi mettevano la firma per restare. Alcuni lo fanno per passione, altri partecipano a missioni pericolose per mettere da parte dei soldi in più rispetto ai 1.200 euro medi. C'è chi in Afghanistan è stato più volte, ma ora non nasconde né le proprie paure né le perplessità. Che ci stiamo a fare qui? Non ci capisco nulla, si sfogava su Facebook Luca Cornacchia, il quinto alpino ferito nell'ultimo agguato. L'aveva confidato pure alla mamma Cesidia. Erano proprio una squadra, amici, si volevano bene. Sapere che i suoi amici sono morti non è facile. Mi diceva: mamma, non ti preoccupare, sto bene perché io tornerò da mio figlio e da mia moglie, insomma. Lui è sempre partito contento, ha fatto parecchie missioni, però questa ci pesava un po'. Sapeva che dove andava era pericoloso. È questo che le ha raccontato suo figlio? Mi raccontava mio figlio, dice: ma là ci dobbiamo andare perché ci stanno gli innocenti che hanno bisogno di noi. Lui lo sapeva che là era una zona più pericolosa delle altre, insomma. Quelli stanno sempre là, in agguato. Dove altro è stato suo figlio? In quale altre missioni? In Kosovo, questa è la terza missione qua in Afghan. Questa era l'ottava missione. L'ottava missione ed era la terza volta che era stato già in Afghanistan? Sì, sì. La prima volta, la seconda volta stava proprio a Kabul. Mo sta a Farah, sta proprio nel deserto. A me mi interessa solo che tutti i ragazzi stanno bene. Ma secondo lei sarebbe ora che i soldati italiani tornassero dall'Afghanistan? Ma io non ci manderei nessuno. Se la spicciano loro, se la ambicciano loro. Perché quelle gente che non merita niente, perché non capiscono che uno ci va, li va a aiutare, no, a maltrattare. Lo sfogo dei familiari dei militari in missione si unisce ai dubbi di chi, come padre Moretti, in Afghanistan vive dal 90. Rimane sempre una presenza straniera, armata, che la popolazione inizialmente ha accettato come, diciamo, speranza di liberazione da quello che era stato il terrorismo. Ma dopo 10 anni questa presenza comincia ad essere pesante, anche perché poi i benefici, la popolazione in pratica ha ricevuto niente, eh? Ci sono delle domande che io mi pongo: ma perché muoiono questi ragazzi? Perché muoiono? Per chi e per che cosa? 10 anni sono tanti, la prima guerra mondiale quanto è durata, la seconda guerra mondiale quanto è durata, la guerra del Vietnam quanto è durata. Questa è come l'occupazione sovietica, quindi questa speranza di pace c'è sempre stata, ma è stata sempre soffocata. Speriamo l'anno prossimo, è il dialogo del vendatore di almanacchi e di un passeggero. Lunari nuovi per anni migliori dei precedenti, promette il venditore di almanacchi di Giacomo Leopardi. E la tristezza che padre Moretti cerca di contenere trova invece libero sfogo in Mario Randino, da Nocera Superiore, papà di Massimiliano. Mio figlio aveva 31 anni, mi diceva: papà, c'è, questa è l'ultima missione che farò. Voleva mettere in cantiere un figlio perché si era sposato da 3 anni. Gli mancava poco prima di rientrare. Doveva rientrare alla fine di ottobre, quindi era un mese praticamente. Mio figlio è cresciuto già da piccolo con l'obiettivo di indossare una divisa. Partì per militare, dopo 2 mesi dice: papà, che dici, io ho deciso di mettere la firma. Già prima lui si era pigliato il brevetto di paracadutista privato e lui lavorava e tutti i soldi che si guadagnava li spendeva il sabato e la domenica per fare i lanci. Che era proprio la sua passione? Sì, era la sua passione. Era già stato in altre missioni? Questa era la sesta, in Afghanistan era la terza, era stata in Iraq, Kosovo. Immagino che suo figlio le abbia un po' raccontato la loro vita in Afghanistan. Dicevi che lui aiutava dei ragazzini. Prima di partire, no? Chiese alla moglie se aveva vestiario, non ci messi, voleva portare là. Mi diceva: papà, i ragazzi soffrono la fame. Adesso l'ho saputo. Si convitò con un amico che questa volta lui ci aveva paura. Vedeva questa recrudescenza che aumentava. Una recrudescenza destinata anche ad aumentare, secondo il nostro ambasciatore a Kabul, Claudio Glasner. La pericolosità è da ascriversi alla rabbiosa reazione dell'insorgenza di fronte ai successi che sono stati riportati dalla coalizione internazionale. Ci dobbiamo attendere che in questo stato di incertezza, di maggiore aggressività, è destinato ovviamente ad aumentare. L'elemento positivo in tutto questo è che c'è un tentativo di riavvio in maniera incerta e di riconciliazione. Tra chi? Tra l'insorgenza, quantomeno quegli elementi dell'insorgenza che sono disposti a farsi riconciliare, e il governo afghano. Va spesso ad Herat l'ambasciatore e molti militari li conosce di persona, conosce la loro formazione per la bonifica delle strade, come la generosità di chi, come il maresciallo Giovanni Pezzullo, è morto mentre distribuiva cibo e vestiti. Anche per questo, dice Glasner, il generale Petraeus, capo delle forze internazionali, ha voluto elogiare i 4 alpini morti per le nostre attività umanitarie. Bonifica bonifica del territorio, di assistenza umanitaria, attività di aiuto al governo ad essere presente anche nei distretti più periferici, scuole, coesione allo sviluppo, sta dando una forte accelerazione a quelle che sono le attività sanitarie, ma soprattutto agricole, cioè noi stiamo aiutando gli agricoltori a valorizzare al meglio le loro produzioni, aiutarli a portarli su degli sbocchi commerciali. Il nostro successo purtroppo in questa fase viene misurata proprio dagli attacchi dell'insorgenza contro le forze internazionali. Attentati che hanno ucciso 34 persone dall'inizio della missione e che hanno lasciato orfani, vedove e genitori straziati. Sono simili le storie dei militari caduti e del dolore di chi è rimasto. Ai familiari lo Stato dà un risarcimento pari a 10 volte lo stipendio di un anno dei soldati, secondo i canoni della polizza stipulata tra Ministero della Difesa e Cattolica Assicurazioni. E in totale per le 34 vittime negli anni sono stati elargiti circa 13 milioni e mezzo di euro. Ma anche il risarcimento, insieme al dolore, spesso contribuisce a lacerare le famiglie, perché ad esempio nulla spetta ai genitori nel caso in cui il figlio sia sposato anche da pochissimo, come solo da poco è stata superata per i militari la differenza tra mogli e compagne, ma non per i civili, denuncia Adele Parrillo, vedova Rolla, il regista morto nell'attentato di Nassiriya in Iraq. Nel 2003, subito dopo l'attentato di Nassiriya, fu fatto quel decreto per dare l'indennizzo ai parenti delle vittime. Figurava la compagna Amore Uxorio nel 2005 in occasione della consegna della Croce d'Onore. Nel decreto non compare più la compagna di fatto, cioè nell'ordine di priorità c'è la moglie, se questa non ci fosse ci sono i figli, ci sono i fratelli, se questi non ci fossero la Croce d'Onore andrebbe addirittura al comune del commemorato, cioè la compagna è completamente scomparsa. Questo è sempre soltanto per quanto riguarda i civili. Un decreto recente del Ministero della Difesa che invece riconosce addirittura le compagne dei militari morti in missione. Quindi è cambiato qualcosa, ma per i militari non è che ci sono mogli di serie A e mogli di serie B. Di sicuro però uno solo, lo stesso, è il dolore dei familiari di quei 35 nomi scolpiti nella lapide di Kabul. La seconda edizione Italia in Controluce termina qui, l'archivio di tutte le puntate sul nostro sito radio24.it. Ci sono tre modi da oggi per comunicare con noi: il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, Twitter Italia in Controluce, la mail controluce@radio24.it. La mia voce torna domani alle 6:30 su Radio 24.